Torino, nel posto. Buttiamo l'eccesso, chi fa pena. Torino ancora qua, Torino sulla scena. Un è contro tutto e tutto il tuo clan. Carica, click click bang bang. Buttiamo l'eccesso, chi fa pena. Torino ancora qua, Torino sulla scena. Un è contro tutto e tutto il tuo clan. Carica, click click bang bang. Noi no, con mille articolo 31. Noi no, ma io rimango sempre puro. E 6CH non è un soprannome, è un nome sopra te con l'orgoglio, terrone. Non ci sono dissing e mo ti spiego il perché. Nessuno stronzo vuol venire contro di me. Parola style, non mi lamento, sai. Io originale, come no mai. Sono convinto che non verrai. Il mio nome è blasfemia, nei ricordi delle file. Ritorno nel tuo stereo, ancora più crudo. E questo rap fra è rimasto il mio scudo. Il tuo flow nella city è una bomba normale. Invece il mio boom è una bomba nucleare. Ti sputo in faccia e ti presento la mia fotta. Sono due volte per caffone del piotta. Buttiamo l'eccesso, chi fa pena. Torino ancora qua, Torino è sulla scena. Non è contro tutto e tutto il tuo clan. Carica, click click bang bang. Buttiamo l'eccesso, chi fa pena. Torino ancora qua, Torino è sulla scena. Non è contro tutto e tutto il tuo clan. Carica, click click bang bang. Tanto so che mi inviate, perché siete qui e so che aspettavate. Flow non lo reggi, ti tira capate. Guerrieri di strada siamo gli street fighter. Voi non c'entrate, a tempo non state. Fai rap commerciale, non riesce a doppiare. Fai l'extra beat, su beat troppo lento. E rapi con la convinzione di essere un talento. Lo sai che ti sventro, mi passano a topare per chiudere il tuo becco. Stretto, fesso, e le restanti 8 me le tengo. Perché penso che non sei il peggio del peggio. Scherzo, per me sei il peggio del peggio. E non scherzo, però se chiedo un figlio te lo rendo. Scherzo, non fare il boss se mi vedi giù a reparare. Perché poi sicuramente vai da me a registrare. Buttiamo l'eccesso, chi fa pena. Torino ancora qua, Torino è sulla scena. Non è contro tutto e tutto il tuo clan. Carica, click click bang bang. Buttiamo l'eccesso, chi fa pena. Torino ancora qua, Torino è sulla scena. Non è contro tutto e tutto il tuo clan. Carica, click click bang bang.